Radio 24 Reportage. Calma apparente nel sud del Libano, di Cristina Balotelli. Ehi! Oddio! Quattro anni dopo il conflitto con Israele, in Libano regna una calma apparente. Le ostilità sono cessate, ma i nodi non risolti sono ancora lì, a cominciare dal disarmo di Hezbollah. Nella base militare di Shama, nel sud del Libano, ci sono circa 1.600 italiani impegnati nella missione UNIFIL. Il comandante del settore ovest, generale Giuseppe Nicola Tota. Non abbiamo evidenza di organizzazioni militari o di paramilitari che in questo settore, come è stato diciamo fino a un certo periodo, si erano organizzati per fare qualcosa nei confronti di qualcun altro. Anche il comandante di UNIFIL, il generale spagnolo Alberto Asarta Cuevas, ci dice che i caschi blu non hanno prove della presenza di armi. Io credo che UNIFIL todavía le queda tiempo aquí en... Credo che UNIFIL resterà ancora un po' di tempo qui nel sud del Libano. Quanto agli Hezbollah, lo dite voi che si stanno riarmando, che sono armati. Noi non possiamo dirlo perché nella nostra area di operazioni non abbiamo evidenza di nulla di simile. È possibile che dopo anni dall'ultima guerra abbiano armi, in quanto resistenza, ma noi questo non lo possiamo dire perché il compito di disarmare i gruppi armati o di verificare e controllare non spetta a noi, ma al governo e all'esercito libanese, nel rispetto della risoluzione dell'ONU. D'accordo con la risoluzione. Se le armi ci sono, sono ben nascoste. Ed ogni pretesto è buono per far esplodere la tensione. Lo si è visto il 3 agosto scorso, quando è bastato un albero a innescare scontri tra militari israeliani e libanesi. Per quanto riguarda la mia opinione, non so quanto convenga a Hezbollah andare ad organizzarsi in maniera evidente o in altra maniera qui. Non penso abbia l'interesse di innalzare la tensione con la presenza di UNIFIL. Hezbollah, il movimento sciita libanese sostenuto da Iran e Siria, non è solo un partito con deputati nel Parlamento, è anche una milizia molto ben organizzata, uno Stato nello Stato, con migliaia di missili. La macchina della propaganda del Partito di Dio è impressionante. La TV Al-Manar, con sede a Beirut, produce numerosi videoclip, come questo, scaricato da YouTube. Lo scorso luglio un'esercitazione delle forze UNIFIL ha provocato una ventina di proteste nei villaggi del sud, alcune vere e proprie sassaiole contro i militari. Pochi giorni dopo, un altro incidente. Sassi contro i caschi blu francesi a Tulin. 4 feriti. Secondo alcune fonti diplomatiche occidentali, militanti di Hezbollah incoraggerebbero questi confronti tra civili ed UNIFIL. Secondo le autorità locali, invece, si tratterebbe di proteste non organizzate. Ma le autorità locali sono espressione di uno dei due partiti sciiti all'opposizione, Hezbollah o Amal. Noi abbiamo coordinato tutto con UNIFIL. Quando accade qualcosa di simile all'incidente con i francesi, è da ricondurre al comportamento individuale di alcuni militari, che fa arrabbiare alcuni civili. C'è stata una discussione perché i militari francesi sono entrati nel villaggio, nelle strade private. Non bisogna curiosare. È come quando delle persone litigano per un incidente stradale. Ma la popolazione non vuole questo. Abdel Mohsen Al-Husseini, 73 anni, è il presidente delle municipalità di Tiro, nonché ex sindaco della principale città del sud. La gente chiede rispetto. Gli italiani rispettano la popolazione. ma alcuni contingenti no. La gente è stanca delle guerre, vuole UNIFIL per mantenere la pace, non per fare attività di polizia. Se questo succede, scoppiano gli incidenti. Le forze UNIFIL devono attenersi alla risoluzione 1701 dell'ONU. Questi problemi non stanno capitando con gli italiani, perché loro rispettano la risoluzione, ma con altri contingenti, a causa del loro comportamento, che non piace alla gente, c'è troppa differenza tra i militari per la pace e i militari per la polizia. Gli italiani stanno applicando la risoluzione, rispettano le regole e la gente li ama. Invece, quando qualcuno va oltre, arrivano i problemi. Prima di tutto viene il rispetto. Entrare con un blindato in una stradina di un villaggio e scattare fotografie, per esempio, è ritenuta una violazione della risoluzione 1701 dell'ONU. I francesi avrebbero allungato troppo lo sguardo. Ma perché la gente non vuole che i caschi blu entrino nei villaggi? Mohamed Al-Husseini, figlio dell'ex sindaco di Tiro e avvocato a Beirut. Here for a conservative community, it's not accepted. Questa è una società conservatrice, non accetta nemmeno che l'esercito libanese entri nei villaggi, nelle strade strette, perché le case sono una attaccata all'altra ed entrare in queste strade vuole dire mancare di rispetto. Qui nel sud abbiamo una società molto religiosa con una mentalità conservatrice. Entrare nel villaggio è percepito come una violazione della privacy. I progetti portati qui nel sud da UNIFIL sono molto apprezzati dalla gente, ma guai a toccare la loro privacy, allora diventano aggressivi. Tutto qui. So whenever you go inside, it's like you are breaking his house, his privacy. So it's not more than this. Gli italiani sono benvoluti anche per i progetti umanitari nel sud del Libano. Gli interventi riguardano scuole, orfanotrofi, fondazioni, ambulatori. Il sud, a maggioranza sciita, si è sempre sentito trascurato dal governo libanese. Il grosso problema che abbiamo è che i militari italiani sono arrivati nel sud del Libano prima del governo. Il governo non è presente qui, non esiste dal punto di vista degli aiuti sociali. Nel 2006 l'ambasciatore italiano Mistretta ha organizzato un carico di aiuti per la popolazione del sud con navi militari. Ci ha detto che poteva farli arrivare a Tiro, ma il governo libanese non ha accettato. Specialmente il primo ministro libanese, Siniora, non ha voluto che questi aiuti arrivassero a Tiro. Li ha fatti arrivare a Beirut, così qui da noi non è arrivato niente. In questa regione basta poco a scatenare una guerra. Per i caschi blu, che cercano di tenerla lontana, le minacce arrivano soprattutto dagli ambienti sunniti, ci spiega il colonnello Franco Anzalone, responsabile del servizio informativo e sicurezza. I warning che attualmente arrivano sono tutti riferiti ad attività di matrice sunno-salafita, che sono praticamente forze legate al network di Al-Qaeda. Sono presenti nei campi palestinesi? Allora, noi siamo sicuri, cioè siamo sicuri non, al 100% no, però nella nostra area di responsabilità, in particolare nei tre campi profughi che abbiamo, nei tre settlement, non c'è evidenza che tale attività venga posta in essere. Sicuramente la nostra attenzione va anche al di là dell'Itani, perché il problema nostro grosso è che in tutti i casi i nostri movimenti logistici sono fatti verso Beirut. Quindi sulla strada che da la nostra di responsabilità va verso su Beirut, siamo costretti a passare per Sidone. Sidone sono presenti due campi profughi, ed in particolare uno è molto pericoloso, è il campo di Ain el-Hue. Ain el-Hue sicuramente all'interno ci sono degli elementi molto pericolosi, c'è una rete terroristica molto forte. Oggi c'è questo rischio? Lo chiediamo al comandante Tota. Non è un rischio alto, è un rischio molto basso. ed è riconosciuto in ambito internazionale. Ecco. Il rischio alto qui nel settore è un rischio soprattutto dovuto allo spionaggio, acquisizione di informazioni, monitoraggio dei nostri movimenti. وعدنا الصادق وفيكم آية النصرين.